Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Anche stasera, cari ascoltatori, siamo qui con voi e vi salutiamo col nostro più cordiale benvenuti in questa trasmissione da parte di Gesi e di Antonio. Allora Antonio, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Benissimo. Siamo in già forma quasi... tenere compagnia così un'oretta alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori che hanno sempre la pazienza di seguirci. Siamo già quasi alla fine di novembre. Qui il tempus fugit, come sempre, sì, decisamente. Va bene, a te la parola. Allora un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e il numero di telefono per sms, consigli, proposte e suggerimenti che è il 346 23 20 033. Ricordiamo sempre che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione e non dimentichiamo mai naturalmente un saluto al nostro regista. Il nostro regista sempre il primo a essere salutato. Bene, stasera abbiamo un ospite virtuale e parleremo di Conegliano. Allora, prima la canzone che è di Dario Baldambembo. Guarda, stasera ho saputo Baldambembo di chiara origine veneta, okay. Direi sì. Vabbè, che ci canterà l'amico è lui perché è pure il mio migliore amico. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo ascoltato Dario Baldambembo e Caterina Caselli e adesso ascolteremo il nostro Giovanni da Conegliano. Buonasera Giovanni. Buonasera. Buonasera. Ciao Giovanni. Ciao. Ben trovato. Stai bene? Sì, tutto bene, ciao. Ciao. Allora stasera ci parlerai di Conegliano. Siamo arrivati ai tempi di Napoleone, no? Sì, beh, Napoleone deve ancora arrivare, ma ci manca poco, perché appunto dopo il crollo della Serenissima nel 1797, diciamo, e ecco che da Occidente arriva l'esercito di Napoleone. Benissimo, allora a te la parola. Sì. Ecco, quando arriva Conegliano, l'esercito di Napoleone, ecco che là avviene un cambio epocale. Anche proprio per i rumori, i suoni di una città abituata a convivere con i suoni che in genere erano dati dalle processioni religiose, quindi cori religiosi, eccetera. Con l'arrivo di Napoleone arrivano le fanfare, arrivano le bande musicali. Che poi, belle che sono le fanfare! E arrivano proprio con gli eserciti napoleonici. Pensiamo che in quegli anni, siamo nei primi anni dell'Ottocento, e per Conegliano passano più di 60.000 soldati. Quindi immaginiamoci che i rumori potevano esserci per le strade, la città. E poi in più, quando c'era il cambio di un governo, quindi in questo caso appunto il passaggio, perché dopo il trattato di Campo Formido, diciamo che la Napoleone cede il Veneto all'Austria, e venivano innalzati in tutte le piazze alberi della libertà, le famose frasche, dove sotto si festeggiava, si ballava, si cantava, che le troviamo anche il giorno d'oggi, le frasche, dove le frasche, sì, esatto. Era un'ombra, no? Esattamente. Beh, un'ombra sotto la frasca. Esatto, sì. Proprio in queste occasioni, anzi, non è che nascono in queste occasioni, venivano innalzati in queste occasioni, perché alberi della libertà, frasche, venivano alzati anche quando, per esempio, nel 1520 più o meno è passato per Conegliano anche Carlo V. Torre Carlo V è passato per Conegliano, abbiamo testimonianze addirittura che da Venezia per quell'occasione arrivarono anche le ostriche. Addirittura. Così, no, a me personalmente non è che piacciono tanto le ostriche. Oddio. Però no, per esempio c'è gente che, mamma mia, per le ostriche fa un... Sono buone, a me piacciono. Sì? Se sono fresche, raccolte, si sa dalla provenienza qual è. Diciamo che è un cibo prelibato. Sai, sono proprio una cosa del pesce crudo, quindi sì. Ma era una cosa che potevano permettersi i ricchi. Sì. Adesso bisogna stare attenti, perché con il pesce crudo bisogna sempre stare un po' attenti, però insomma. Bisognerebbe andare in posti dove sappiamo che fanno il pesce fresco. Ah, in Normandia, mi danno in Normandia. Ah, in Normandia. Sì. Bene. Ecco, poi dicevo appunto con passaggio all'Austria, con l'Austria in questi anni, perché dopo appunto che Napoleone, dopo la sconfitta di Waterloo, viene arrestato e confinato all'isola di Sant'Elena in mezzo all'Atlantico, dove poi morirà nel 1821. Sì, 5 maggio. Esattamente, brava. E cosa succede? Avviene la restaurazione, quindi tutti i vecchi monarchi, assoluti, principi, si riprendono i poteri che l'esercito napoleonico aveva un attimino cercato di esportare un po' di democrazia, però con la restaurazione, la sconfitta di Napoleone, ritornano questi monarchi assoluti. E Conegliano però, con l'impero austro-ungarico di Giuseppe I, conosce anche una, diciamo, ha delle positività, nel senso che viene migliorata la circolazione, perché la strada Pontebbana, sì, diviene strada postale. Quindi Conegliano prende contributi da Vienna per migliorare le proprie strade, per il passaggio dei postiglioni, che sono, sai, le carrozze che Ma in sostanza, Pontebbana, che provenga dalla parola postale. È un'antica strada militare romana. Ho capito. E Pontebbana, beh, probabilmente varcava, da Pontebba. Pontebba, probabilmente, sì. Confine. Confine di Tarvisio, mm-hmm. E probabilmente è questa la denominazione. Adesso io non conosco l'origine. Ma molto sì, può darsi benissimo che derivi da Pontebba proprio. Sì, no, ma non so in che epoca viene dato questo nome. Sì, beh, insomma. Un'antica strada romana, comunque una strada militare, perché i romani per andare verso l'est, verso la Tracia, usavano queste. Comunque ancora oggi la Pontebbana è una strada molto importante, eh? È una strada importante, purtroppo però mi dicono che era una strada caratterizzata dai platani. Perché era una strada tutta all'ombra da Mestre, mi sembra che sia esatto. Raglio, a venire su fino su a Udine, era tutta piena di platani, che adesso mi dicono l'Italiano. Non ce ne sono più. Che siano sani oppure no, sembra che siano pericolosi anche. Poi adesso bisognerebbe mettere a 6 metri addirittura, ecco, dal ciglio strada, che è una, palesemente a me sembra una cosa un po', come dire, abnorme, strana, insomma, ecco. Perché poi ci sono tutte costruzioni, sì, esatto, e poi anche una questione addirittura retroattiva, mi pare che si fosse la cosa, non lo so, tutte le mie perplessità, diciamo, ecco. Non c'è spazio per loro, esattamente. Comunque Giovanni, sto Napoleone veramente non so dove non sia stato, perché Napoleone, lui purtroppo nel 1812 ha avuto la grande sconfitta in Russia, Napoleone, anche là è stato sconfitto dal grande freddo, come poi è accaduto al nostro esercito italiano nel 42. E dopo di là, cosa vuoi, lui ha fatto la campagna d'Egitto, contro i mammalucchi. È stato un grande, sì. Uno stratega proprio. Grande stratega, sì. Esattamente. Ecco, allora, però ecco che arriviamo eravamo appunto alle migliorie stradali di sì. Tipo, quindi sì, sì. Però la grande svolta epocale per Conegliano avviene il 1 maggio 1855, quindi dopo la metà dell'Ottocento, insomma. Sì, siamo in periodo austriaco, sì. Ricordiamo che il periodo austriaco è dal Trattato di Campoformido fino all'entrata del Veneto nel Regno d'Italia dopo la terza guerra di dipendenza nel 1866. Esatto. Sì. Ecco, il 1 maggio 1855 cosa succede? A Conegliano viene inaugurata la ferrovia, la stazione di treni. Dopo tanto tentennamento da parte del governo austriaco, finalmente si decidono di far passare la linea Vienna-Milano per Conegliano. Quindi non passava, no, era... Tant'è che questa è grazie a una strategia, diciamo, di un assessore, di un ingegnere qua del Consiglio Comunale di Conegliano, che hanno appunto, sono riusciti a far passare la linea ferroviaria per Conegliano. Tant'è che la stazione di Treviso sembra posizionata per far proseguire la linea per Oderzo. Ah. Da come è posizionata la stazione? E invece no, invece va su. Sono riusciti a farla passare per Conegliano la linea ferroviaria. Quindi cosa faceva? Vienna, Milano? Cioè la prima è stata appunto la Venezia-Milano, che è del 1846, quando hanno fatto anche l'inaugurazione della stazione di Santa Lucia, è del 1846. Poi sì. Siamo in periodo austriaco, quindi hanno fatto la Milano-Vienna. La Milano-Vienna l'hanno fatta passare per Conegliano. Ho capito. Cosa faceva Conegliano, Treviso, Castelfranco, Vicenza, la linea che si fa attualmente? Ah, da Conegliano andavano a Castelfranco, cioè a Treviso e poi Castelfranco. Conegliano, Treviso, Castelfranco. No, faceva la linea alta, anziché fare la linea per Oderzo, hanno venuti per Pordenone, Udine, Pordenone, Conegliano, Treviso e giù. Sì, infatti adesso è così la linea, no? Perché viene da Udine. La stazione dei treni di Treviso non è posizionata in quel modo, è posizionata in modo orizzontale, come se la ferrovia dovesse proseguire verso Oderzo. E invece no. E invece l'hanno fatta verso Berza, però poi sono riusciti a fare questa linea per Conegliano, quindi hanno fatto la S a Treviso, cioè questa S della ferrovia. Ho capito. Beh. Comunque aspetta, ci fermiamo, Giovanni, ci fermiamo un attimo per ascoltarci una canzone. Va bene. Intanto tu ci aspetti, eh? Allora, ci ascoltiamo, cantata da Gigi D'Alessio, Non mollare mai. Ero ancora ragazzino e con mio padre litigavo per i brutti voti a scuola, solo sei. Ma di musica, lo giuro, ne facevo indigestione, preferivo un pianoforte che due calci ad un pallone. Quanto tempo ci passava sopra quei tasti che sfioravo, era tutto bianco e nero intorno a me. Mi ascoltavano gli amici, sorridevano felici, quella voglia di arrivare era forte dentro me. Mai, non mollare mai, se non ce la fai, tieni duro e aspetta quel momento primo o poi, finché vita avrai, non mollare mai, manda avanti il cuore. Faccia ricevuto, la risposta era la solita per me. Ci faremo noi sentire e faremo poi sapere, ma il telefono non mi squillava mai. Ed eccoci di nuovo in studio per ascoltare ancora, diciamo, queste interessanti notazioni sui trasporti, che sono un fattore di sviluppo straordinario. Io faccio una piccola così, bella sta canzone, Non mollare mai, proprio è vero che non bisogna mai mollare nella vita, vero Giovanni? Guai se no. Ecco, bisogna sempre andare avanti e superare tutto, esattamente, nel miglior modo possibile le avversità, anche se qualche volta, vabbè. Comunque, non mollare mai, Giovanni, eh? Assolutamente. Bene, proseguiamo allora. Sì, appunto dicevo con l'arrivo della ferrovia, cambio epocale, perché cosa succede? Che improvvisamente abbiamo rumori nuovi, rumori che mai sentiti prima d'ora. Pensiamo allo sferagliare dei treni, la locomotiva, eccetera. Quindi tutti una serie di rumori nuovi. Comunque cosa porta la ferrovia Conegliano? Porta anche un incremento nella... Già era una zona strategica per i traffici commerciali, come dicevamo la scorsa volta, per i carri, per le merci che arrivavano da Venezia. Quando arriva la ferrovia le cose si ingrandiscono, ecco che arrivano legname, arrivano materia prima dall'Austria e nascono le prime grandi imprese di botti. Ah, ecco i bottai, sì, esatto. E allora ecco che abbiamo l'impresa Balushnik in via Manin, abbiamo altre imprese, e la Carbellotto, ci sono grandi, grandi aziende che nascono in quel periodo. Oltre che la grande, nascono anche altre grandi imprese come la Carpenè Malvolti. Del vino. Quindi diciamo casa e bottega, insomma, diciamo, ecco. Che all'odore di vinaccia Conegliano era già abituato da tempo, era cantina dogale, quindi esatto, era rinomato. Fanno anche del buon prosecco veramente che a Conegliano. Ma c'è un po' di tutto, sì. Comunque adesso in questi giorni, anche nel mese di ottobre, avrai sentito ancora per Conegliano odor di vino, no? Non si sente più ormai? Adesso si sente l'odore del caffè in questo periodo. Ah sì? C'è di casa e si sente il profumo della torrefazione della Dersut, che è qui a Conegliano. Ah, la Dersut di Conegliano, è anche un buon caffè poi quello della Dersut. Sì, e poi fanno invece verso novembre, così, ottobre, scusami, i primi di ottobre, si sente l'odore della vinaccia proprio, della Malvolti. E anche quando il vento arriva da nord, dell'Andrea da Ponte. Sono le storiche aziende qua. Andrea da Ponte fa la grappa, no? Fanno la grappa, sì, sì. Andrea da Ponte fa la grappa, e mentre la Carpenè fa sia grappa che il Brut, il vino. Sì, lo spumante, sì, il Brut. Poi in quegli anni, appunto, nascono anche grazie appunto alla capacità di menti pensanti che c'erano a Conegliano in quel periodo. Nasce la scuola enologica. Il Cerletti. Il famoso Cerletti, sì, sì. Che è rinomata in tutto il mondo. Esatto, sì. Ecco, e sono anni in cui arriva l'elettricità, siamo a fine 800, arriva l'elettricità, dopo l'entrata del Veneto nel Regno d'Italia, ecco che Conegliano diventa di nuovo un importante avamposto, quindi ritornano nel 1870, ci sono 5 caserme, vengono fondati addirittura 2 reggimenti, il sesto e il settimo alpini. Eh beh sì, a Conegliano. E loro avevano un reparto di artiglieria da montagna, quindi pensiamo che per le strade passavano questi carri con l'artiglieria tirati da muli, insomma, proprio. E ecco, e siamo fino a 200 e si produce la prima energia elettrica. E arriva pian piano anche l'energia elettrica che... No, sì, funzionava con le acque reflue che cadevano dai colli, venivano imbrigliate e con le turbine veniva prodotta la corrente che alimentava i telai, in particolare dei grandi calzifici che c'erano qua a Conegliano in quel periodo. Calzifici? Sì, cotonificio... Calzificio, perché in Conegliano, oltre che no, è sempre stato importante per il discorso tessile, a partire dalla confraternita dei padri di San Polo, che dicevo l'altra volta, che loro con le acque del Monticano filavano la lana, avevano gli impianti tessili lì sul ponte tra il ponte di San Martino e il ponte della Madonna. Adesso chi è che fila più la lana? Adesso ormai la lana non si fila più. Adesso c'è la tecnologia. Quindi a Conegliano non era un paesotto di campagna che dici stai tranquillo, c'era tanto i treni, le ferrovie che passavano, c'erano, sì, i carri che... Sempre un importante punto di... perché qua era il punto strategico in quanto c'erano le vie che andavano verso su, verso nord, verso il Fadalto, quindi verso la Germania, e verso est, verso Udine, verso Vienna. Uno snodo importante, sia di tutte le vie di comunicazione, quindi. Infatti, come dicevo l'altra volta, avevamo gente che proveniva, che si insediava qui, proveniente da fuori, c'era, per dire, il gestore di un ristorante era tedesco, e così c'era sempre molti, molti bergamaschi, perché la Serenissima dava incentivi a coloro i quali si insediavano sui propri territori ad aprire attività. Per cui un'intelligente opera. Visto che c'era gente, ne approfittavano per aprire botteghe, per fare lavori artigianali, eccetera. Anche attirati probabilmente dalle condizioni di salubrità del clima, eccetera, oltre al resto. Assolutamente, perché sì. Tutta la zona qua era tutta paludosa, più a sud, verso Porto Gruaro. Esatto. Ma voi avete proprio le colline poi vicino, no? Sì, beh, sai che Conegliano appunto nasce come come fortezza sulla collina, sì, attorno alla quale piano piano poi si sono. Ma quanto è alto dal livello del mare? Il colle, strano, non sai che non lo so. Sì, ma dico Conegliano, no, non è... Conegliano mi sembra che sia, dove sono io qua, sono 50 metri, mi sembra, però il colle sarà 100, 200 metri. Ma insomma, sempre qualcosina più di Treviso forse. Avete aria migliore di Treviso. Poi è sempre stata una grande importante città, insomma, è stato... sono due cose, magari... C'era il Piave di mezzo, quindi mai due cose un po' diverse. Diverse, sì. Perché cambia anche il dialetto, perché il Piave una volta faceva una barriera, perché non tutti lo attraversavano. Sinistra Piave, naturalmente. Sì, sì. Sì, dal Conegliano è sulla sinistra Piave, no? Sì, sì. Sì, noi siamo sulla destra Piave. Ecco, Piave, ecco che torniamo poi, che diventerà linea di confine nella prima guerra mondiale, dopo la sconfitta di Caporetto, ecco che Conegliano anche lì diventa avamposto austriaco. Ecco, comunque, tornando alla elettricità, iniziano le prime luci, e Conegliano inizia ad avere qualche lampadina di qua e di là, qualche piazza, c'è un elenco delle zone dove venivano le prime illuminazioni pubbliche. Eh sì, cominciavano pian piano a illuminare... Sì, sì, siamo a... dopo il 1860-1870, l'epoca in cui viene fondata appunto queste aziende che dicevo prima, la scuola enologica. Beh, insomma, hanno cominciato prestino anche a illuminare le strade anche a Conegliano. Diciamo. Sì, beh, consideriamo che in Inghilterra hanno iniziato un 20-30 anni prima, insomma, anche. Sì, beh, insomma, diciamo che anche noi non è che siamo proprio... le strade, ma le piazze, alcune piazze, perché le strade fino a metà degli anni 90, fino al metà del secolo scorso erano tutte bianche, erano tutte quante in terra battuta. E a voi non erano asfaltate? Ma no, l'asfalto mi sembra, guarda, via Manin viene asfaltata nel 1954. Addirittura? Le prime strade erano asfaltate, se pensiamo anche alla Ponte Bana, cioè erano tratti che non erano asfaltati, ma ancora negli anni 60 del secolo scorso. Ma pensa un po', no, io pensavo che sì, perché quando, sì, ma hanno dei bei marciapiedi abbastanza percorribili adesso. I marciapiedi adesso sono adibiti a tutt'altro che all'uso pedonale, perché adesso con la raccolta differenziata io ogni mattina trovo sul marciapiede o la carta o gli umidi, o... cassonetti. Sì, non lo so. Comunque, insomma, Conegliano era, fino a una certa epoca, le strade erano in terra battuta. Sì, ma non solo Conegliano, tutto il nostro territorio. E l'odore che c'era per le strade era quello di stallatico, perché così, perché le passavano, circolavano in genere tiri di animali, perché se pensiamo alle prime macchine, sono del primi novecento, del 1900, c'è un decreto regio del 1901 che impone a tutti i mezzi circolanti l'uso di segnalatori acustici. Ah. Quindi lo so, il campanello per le biciclette, la tromba per le macchine. Sì. E per i carri? No, c'era lì il divieto nelle campagne di suonare questi segnalatori per non spaventare gli animali. Ah, ho capito. Per le strade ormai erano pochissimi coloro i quali avevano mezzi a motore e così. E allora non potevano suonare, ma se forse ricordiamo, ci sono ancora i cartelli segnalettici sulle campagne che c'era scritto, c'era il limite di 50 e poi la tromba sotto. Esatto, non suonare, per non disturbare gli animali. Beh, chissà quanti cavalli anche da Conegliano passavano allora, perché erano molto molto frequenti i passaggi di cavalli per le carrozze, per i carri, per... Quello è il periodo austriaco, c'erano i cavalli, con le carrozze. Poi, più che altro, siccome a Conegliano tutto attorno c'era il contado, più che altro c'erano mucche, buoi, così, carri tarinati da buoi, mucche. Io ricordo già in campagna negli anni 60, 50, 60 si usava, le pochissime avevano il trattore, tantissimi avevano le mucche per arare i campi. Parlo di da 300-400 metri dal centro di Conegliano c'era la campagna, quindi il Musile, per dire. Quindi c'era questa convivenza stretta, ecco, tra il territorio. E così, ecco. Sì, comunque diciamo che si è sviluppata Conegliano molto probabilmente più di tanti altri paesi grossi qui. Fortuna ha voluto che la ferrovia incrementasse il suo sviluppo, perché con la ferrovia sono arrivate tante aziende. Poi in Conegliano, cosa vuoi, c'era l'unico posto dove si poteva comprarsi un paio di scarpe, dove c'era un negozio, dove si poteva lavorare, c'erano gli opifici della lavorazione della seta, e quindi dalla campagna arrivava la gente a lavorare qui a Conegliano, moltissimi. Prima del Novecento c'è un sviluppo, un boom edilizio anche di Conegliano, per tutta la gente che veniva a abitare qui, perché si vedeva qualcuno, si poteva comprare, si poteva frequentare le scuole serali, c'erano le prime scuole serali. Le prime meritorie. Siamo a fine 1870, ci sono le scuole serali, quindi c'è la possibilità di crescere, ci sono i fornai, c'è attività, ecco. Ma per esempio la ditta Zoppas. E là siamo più avanti. Più avanti. La ditta Zoppas nasce nel 1926. Ah, ho capito. Sono i fratelli Zoppas, sono tre fratelli che si uniscono. E loro hanno avuto la fortuna di inventare una cucina economica, non pesante, che poteva essere esportata. Ho capito. Loro facevano addirittura nel 1930, quando Conegliano, nel periodo del fascismo, non ha, non so se 3.000 iscritti al registro della povertà. E i fratelli Zoppas mettevano a disposizione le loro cucine, che venivano chiamate cucine del fascio. Ah, addirittura. A mangiare a tantissime persone che erano. Ci fermiamo un momento, Giovanni, per ascoltarci un'altra canzone. Bene. Ecco. Allora, dai ricchi e poveri, ci ascoltiamo Come vorrei. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Eccoci di nuovo in studio, Giovanni. qua. Ecco, adesso ti lasciamo parlare fino ai saluti. Va bene, mi fermate perché magari parlare con voi. No, no, parla. Sì, magari. Ma... Parla. Allora, dove eravamo arrivati? Sì, della ferrovia che porta questo sviluppo economico notevole. Cogliano conosce un fervore proprio in questo periodo. Fino a che anni? Fino al 1914-1915, quando nel 14 sappiamo che scoppia la prima guerra mondiale, il 28 luglio del 14. E Conegliano, benché quel 5 gennaio, quella sera del Panevin, le famiglie andassero a sera, e nessuno si prospettava che quell'anno là si sarebbe cominciata la guerra. Una catastrofe. Allora vuol dire che anche quelli sono... Sì, sì. È bugiardo anche il Panevin, allora. La sera là ci ha ingannato il Panevin. Sì, perché... Ma quindi il Panevin era già di moda a quei tempi? Il Panevin è un rito pagano che si perde nella notte dei tempi. Beh, perché sì, perché anche i nostri antenati ci credevano anche, veramente. Ma forse loro... La trasmissione è solo sul Panevin, guarda. Ah, sì. Sì, sono cose molto, molto, molto remote. Sì, ma certo che è molto interessante anche questa tradizione del pane e vigne. Sì. Vai pure avanti. Ecco, l'entrata in guerra dell'Italia, prima a questo periodo neutralista, poi nel 24 maggio l'Italia entra in guerra sulla spinta degli interventisti. Guerra che significa richiamo di molte, molte persone da Conegliano e dai dintorni per il fronte che viene poi spazzato il 24 ottobre del 17 nella sconfitta di Caporetto. Quando da est avanza tutto l'esercito dell'Austro-Ungarico, tedeschi, croati, austriaci, entrano fino al fiume Piave. C'è una testimonianza del sindaco di Conegliano, Enrico della Barba, mi sembra si chiama, che ha scritto un suo diario, che si può trovare, che racconta quei giorni, che siamo dal 6 novembre 1917 al 30 ottobre 1918, quando poi c'è stato l'armistizio, che racconta cosa succedeva in quei giorni a Conegliano. Quando l'esercito sono arrivati, cioè l'esercito italiano scappava e faceva saltare i ponti dietro di sé per rallentare l'attacco degli austro-ungarici. E gli austro-ungarici che arrivavano e saccheggiavano e incendiavano tutto quello che trovavano. Per Conegliano avevano trasformato tutti i pianterreni e delle case, le avevano trasformate in magazzini, tutte le chiese, la chiesa di San Rocco, tutte le chiese avevano trasformato in magazzini, stalle per cavalli oppure depositi. Pensa. È stata incendiata la fabbrica di botti di Valusnik, via Manin. È stata incendiata la chiesa, è stato un po' di disastro, venivano razionate tutte le provviste, il grano, requisito tutto il grano. C'è proprio una testimonianza molto ricca su ciò che è accaduto. Che è successo appunto quell'epoca lì, insomma. È stato un campo di battaglia Conegliano, anche lui. Ah no, era avamposto austriaco, quindi loro avevano occupato, perché la linea del fronte era sul Piave. Sì. Il fronte sul Piave avevamo, qua c'erano gli aeroporti, c'era l'aeroporto sul Menarè e un aeroporto a Godiga di Sant'Urbano che erano aeroporti dell'impero austro-ungarico, e c'erano dei velivoli che si alzavano in volo qua e sul fronte austro-ungarico, e dall'altra parte l'aeroporto di San Giuseppe di Treviso sul fronte italiano. Le battaglie si svolgevano sopra il Piave, Ponte della Priula, su quella zona, sul Montello. Susegana. Baracca è stato abbattuto. Là, lui era comandante di una flotta. Francesco Baracca. Baracca, sì. Troviamo il suo monumento sul Montello, no? Esatto. E ci sono testimonianze che da Conegliano si vedevano i bagliori del fuoco, delle trincee, dei cannoneggiamenti sul Monte Grappa. E addirittura c'è una signora che dice che sul Piave si vedeva scorrere la sangue, l'acqua rossa. Mamma mia. Non so se veramente, però non penso che esagerasse la signora a dire queste cose, insomma. C'è una copertina del Domenica del Corriere che mostra un velivolo, i biplani con le ali sovrapposte, sui cieli di Conegliano in quel periodo. Penso un po'. Sono tutte testimonianze che sono molto, sì, penso, molto attendibili, anche perché chi l'ha vissuta veramente quella guerra? Chi l'ha vissuta, sì, c'è anche una maestra di Campolongo che racconta che quando si sentiva, intanto gli austro-ungarici tagliavano ogni pianta di alto fusto per fare le trincee sul Piave, venivano requisite tutte le piante, anche dei giardini tagliate. Disboscamento totale. Sì. Per fare trincea, sì, anche nei parchi cittadini veniva tagliato tutto per fare trincea. E diceva che proprio si sentiva, perché c'erano gli italiani che cannoneggiavano verso Conegliano, perché qua era austro-ungarico, e quindi anche qua eravamo attaccati dalle nostre stesse concittadini, insomma, ecco, diciamo, connazionali, dai. È stata una guerra. Ecco, una cosa che proprio pensavo l'altro giorno, ecco, ma il 4 novembre, che è la data nella quale è finita la guerra del 15-18, però non si festeggia, cioè, secondo me dovrebbe essere considerata giorno festivo, giorno, perché è stata importante, secondo me. E invece la memoria è labile, purtroppo. Sì, non so come mai, beh, come il 25 aprile, del resto il 25 aprile è finita la seconda guerra mondiale e il 4 novembre è finita la prima guerra mondiale. Guerra mondiale, e che a differenza della seconda, la prima l'hanno festeggiata, la seconda ci sono stati vincitori, anche vinti, diciamo, la prima era più una guerra. Sì, effettivamente, non so, se non ricordo se il 4 novembre una volta era... Sì, una volta sì, penso di sì, dopo l'hanno tolto, sì, c'erano le cosiddette vacanze dei morti per le scuole, ecco. Però poi hanno deciso di toglierlo. Va bene, vabbè, se lavora di più adesso ce n'è bisogno. Vabbè, Giovanni, allora... Ecco. Poi non so, se volete io continuo. Vai, vai, vai. Ecco, questa è questa, appunto, quel periodo, il post dopoguerra, lascia ovviamente, come ogni guerra, un seguito di povertà e ovviamente anche di persone ferite, mutilate, che ritornano. Io ho avuto un nonno che lui era del 99, che era proprio i ragazzi del 99. Sì. Lui è stato anche lui ferito, dopo è morto a 80 anni, poveraccio, comunque non in seguito agli eventi bellici, però anche lui aveva partecipato a Caporetto, insomma. E ho avuto fortuna di sentire alcune sue testimonianze, dato che non, anche se non aveva voglia di parlare di queste cose, perché penso che rimangano dentro, è come leggersi il libro di Steiner o altri, che insomma ti lasciano un po' qui. E povertà, e quindi cosa succede? Ecco che in quegli anni, ecco che è importante, perché con il 24 sappiamo che entra il partito fascista al potere, Mussolini. E Mussolini cosa fa? Una cosa importante, migliora lui investe molto nell'agricoltura, battaglia del grano, eccetera, ma soprattutto cos'è che con il periodo del fascismo viene? La radio. Ah. La radio entra con il fascismo. Sì. Siamo nel 1926, Heyer, ecco che per la prima volta sentono le voci di una persona, di un politico, per esempio, che arriva in tutta Italia, non è più una persona sola, riesce a parlare a tutti gli italiani. Sì, il fascismo fa una grossa campagna con la radio. Erano pochi che avevano un apparecchio radio in casa, penso. Erano pochissimi, ma allora il festival organizzava dei punti di ascolto. Uso collettivo, sì, esatto. Diffondere la voce del Duce. Ecco che nasce proprio in quegli anni la cultura del Duce, perché era una persona che riusciva a parlare tutti quanti contemporaneamente. Ed era anche molto convincente, a quanto pare, perché io non... E il periodo era... di miseria, perché come dicevo prima, negli anni 30 c'erano 3.000 iscritti al registro della povertà qui a Conegliano, e quindi sai, quando uno è povero, quando uno dall'altra parte è chi ti promette pensioni e questa cosa, sì. Uno anche rischia di crederci, no? Diciamo che le cose si ripetono, però gli eventi si ripetono. Perché i cicli cambiano. Appunto, ma dico, gli eventi si ripetono in maniera diversa, in epoche diverse, però poco tanto sono sempre quelli. Che adesso, per esempio, abbiamo la crisi qui. Nel 29 c'è stata la crisi in America, fortissima. È che dopo quelle crisi avvengono sempre brutte cose. Prima di stabilizzarsi, sì. Le crisi, perché come è successo col nazismo in Germania, e anche là la stessa cosa, perché c'erano tanti disoccupati, come è successo con il fascismo qua, perché anche qua c'erano tanti disoccupati, allora venivano arruolate delle persone per dare i scioperi e così. Sì. Sono cominciate le prime battaglie sindacali. Tra il 18 e il 1918, il primo sciopero è del 1906, che però siamo a Torino. Alla... Sì, sì, ma dico da noi nei paesi così, penso che siano cominciati più tardi. Sì, c'è stato il biennio rosso comunque tra il 18 e il 20, ma qua sai, non c'era grande industria, quindi l'abbiamo sentita un po' meno. I grandi scioperi qua da noi arrivano negli anni 60 proprio con la Zobas, perché prima, essendo artigianato, non lavora a Tasi, diciamo, non c'era grande... Metalmezzadri. Sì, comunque... Appunto negli anni 60, quando arriva l'industria, allora ecco che i giovani non avevano più voglia di rifare la vita dei propri padri, e quindi cercavano nell'azienda un stipendio certo, insomma. Beh, certo. Ascolta Giovanni, allora, adesso ci fermiamo. Sì? E se avrai qualcosa da dirci, avremo modo di sentirci in un'altra trasmissione, perché penso che tu abbia ancora delle cose da raccontarci, no? Possiamo parlare più avanti di cosa si faceva nei tempi moderni, cosa si faceva in campagna. Ci sono tante cose, insomma, perché come ripeto, la campagna era fino agli anni 80 era qua. Adesso qua ci sono zone residenziali, ma era qua a 100 metri dalla stazione ferroviaria. Sì, sì, appena fuori Conegliano, in sostanza. 100 metri dalla stazione ferroviaria c'era la campagna, c'erano le famose siere, che adesso non c'è più niente. No. Comunque, noi ci sentiremo in una prossima trasmissione. Va bene, grazie. Ecco, perché penso che sarà dopo le feste di Natale, perché ormai siamo quasi a dicembre. E ci parlerai di tante altre cose interessanti. Adesso noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie. E ti diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Grazie a voi. Grazie Giovanni. Ciao Giovanni, buona serata. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ecco, abbiamo sentito il nostro Giovanni che ci ha parlato di tante cose interessanti riguardanti Conegliano, e andiamo con la quarta canzone in programma, che è cantata da Rom ed è intitolata Non abbiamo bisogno di parole. Adesso vieni qui e chiudi dolcemente gli occhi tuoi, vedrai che la tristezza passerà, il resto poi chissà verrà domani. Voglio star con te, baciare le tue labbra, dirti che in questo tempo dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua. E non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore, ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. E seguirò il tuo volo senza interferire mai. perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. E sciogli i tuoi capelli, amore mio. Il sole ti accarezza, ti accarezzo anch'io. E tu sei una rosa rossa. Vieni più vicino, accendi questo fuoco, amore mio. E bruceranno tutte le paure. Adesso lasciati andare e non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai e seguirò il tuo. Perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrà. Raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai e seguirò il tuo volo senza interferire mai. Perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. E rimaniamo nell'ambito della tradizione, concludendo la serata con una prefazione di un libro di Bruno Lorenzon, mio compaesano, illustre scrittore di epopea contadina, a Piede Scalzi, è un'autoprefazione. In questo libro, che qualcuno fra i lettori potrà ragionevolmente ritenere un complemento del precedente Drio Arestera e il Parlar dei Noni, i nostri antenati sono soltanto dei coprotagonisti. In realtà gli attori principali sono gli animali con i quali essi vivevano in strettissima confidenza e il mondo vegetale, piante ed erbe, che offriva innumerevoli opportunità di sfruttamento. Questa intima corrispondenza con l'ambiente circostante nel quale erano inseriti e di cui facevano parte naturalmente ha stratificato nel tempo quel bagaglio di esperienze, di consigli e detti sapienziali che noi moderni siamo propensi a rinnegare. Ai tempi dei bisnonni, mi riferisco all'epoca preindustriale, la campagna entrava fin dentro le città e il perimetro dei centri minori si confondeva con lo spazio rurale. Soltanto agli inizi del secolo XX, ma soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie al vertiginoso sviluppo tecnico e industriale, la richiesta di manodopera per gli opifici e per il comparto del terziario ha generato il fenomeno dell'inurbamento e di conseguenza l'abbandono delle tradizioni, delle tecniche e perfino della terminologia caratteristici della civiltà contadina fino a quel momento preponderante. Poco è rimasto di questo patrimonio culturale al quale siamo tutti debitori della nostra identità e del nostro benessere. A differenza di quanto accade nelle fabbriche o negli uffici, il mestiere del contadino non conosceva orari determinati né giorni festivi ed è tuttora soggetto a urgenze che dipendono dalle stagioni e dal tempo meteorologico. La cura dei campi richiedeva che i contadini stanziassero nei luoghi stessi dove svolgevano l'attività, condizione necessaria per operare efficacemente perché a campagna da vicin dà il pan e il vin, a campagna da lontan non da neanche il pan. di conseguenza essi venivano chiamati villani, nel senso che questa parola aveva originariamente, intendendo per villa lo spazio aperto di campagna in contrapposizione al borgo o al castello. È ben vero che il territorio extraurbano fu talvolta eletto a dimora da famiglie nobili o appartenenti all'alta borghesia, ma in questi casi il loro stare in villa, che divenne in seguito abitare in una villa, si configurava piuttosto come residenza provvisoria, oggi diremmo seconda casa, ed era finalizzato anche al controllo della redditività dei dipendenti, dal momento che quasi mai chi lavorava i campi ne godeva la proprietà. Anche ai signori era noto il proverbio che recita «L'occhio del padrone ingrassa il cavallo». Successivamente il termine villano assunse il significato spregiativo di persona rozza e maleducata, inesperta delle convenzioni civili, sottraendo arbitrariamente alla cultura contadina una dignità che le è dovuta per diritto naturale e identificando la confidenza con mezzi umili con una presunta umiltà del loro impiego. Al vian a sapa in man. E ricordo una rima poco caritatevole che faceva presso poco così: quando il contadin gafato a sentenza Dio ga dato e che ga scritto a sua pansa vian de un contadin senza creanza. Quella filastrocca era frutto dell'ingiustificata presunzione dei piccoli borghesi che ritenevano di essersi emancipati dalla terra e aspiravano ad assomigliare nei modi e nel censo agli antichi signori. Naturale e spontanea la ritorsione da parte dei bistrattati campagnoli, i quali, a fronte di un ossequio formale e non di rado servile, che ostentavano soprattutto per timore di perderne i favori, cercavano il riscatto personale snocciolando sentenze caustiche nei confronti dei fattori e coniando ingiuriose, quanto caute, cantilene, riferendosi ai comuni padroni, spesso accomunandoli nella medesima disistima. Cattivo paron, cattivo gastaldo, per esempio. Oppure, riconoscendo al fattore una scaltrezza che forse invidiavano, paron coion, fator panson. Dalle mie parti si usava coionare i paroni affidando ai ragazzi l'ardire di una strofetta didattica. Conte da ebragheonte, dal capel de paia, conte tessina canaia. Motteggio che si addice anche a chi vuole apparire ciò che non è, o presume di sé oltre i pochi meriti. La contrapposizione fra gente di campagna e gente di città è tuttora avvertita, ma è in atto una decisa rivalutazione della cultura contadina che si esprime attraverso studi, pubblicazioni, esposizioni di attrezzi naturali, revival delle tradizioni popolari attraverso i quali vengono messi in risalto le doti di furbizia e il buon senso che mancano a volte a chi non è abituato a confrontarsi quotidianamente con una natura sempre poco propensa a lasciarsi dominare. Una benevola sentenza popolare mette in relazione le scarpe grosse con l'acutezza del cervello, mentre altrove esalta le capacità e la laboriosità della gente di campagna, asserendo che sento scrivani fa un fator e sento fatori fa un contadin. Ne potrebbe essere altrimenti, perché il lavoro della terra pretende fatica ed esperienza. Del resto, osservavano i nostri vecchi, i campi i dà secondo che si lavora. Una volta le nozioni indispensabili venivano apprese nell'ambito familiare e le uniche indicazioni scritte, per chi sapeva leggere, e siamo già in epoche recenti, erano contenute nei lunari, ritenuti la summa del sapere contadino e tenuti in onore di oracolo presso ogni abitazione rurale. Beh, e vedi che c'è il Barbanera, c'è Beppo Gobbo da Casiero, certo, eccetera, che qui da noi. Ed era una, c'era una io conoscevo per tramite di mio zio un famoso contadino, Nane Cagnato da San Siran. Era un noto meteorologo. Questo era, non sbagliava mai. Non diceva sbagliava mai. Quando il mio cane si rivolta sopra la terra, entro tre giorni vento, piova o sole. Ed era sempre, era no, vero, indovinava sempre, era una vero, cosa straordinaria. No, ma anche Beppo Gogo. Beppo Gogo, i contadini erano una genia straordinaria. Sai cosa sarebbe bello anche parlare del pane vin quando sarà possibile? Beh, vediamo, diciamo, in epoca a concia di fare il tutto. Va bene, non ci resta che salutare. Salutare e ringraziare qui, naturalmente, allora, chi ha avuto la pazienza di seguirci. Ringraziamo ancora peripezie. Giovanni per il suo intervento. Ringraziamo il nostro regista, ringrazio te che sei veramente... veramente indispensabile. Non esageriamo. Ecco allora, buonanotte a tutti.